farti una pausa per capire quante volte quelle sere eri da solo a sperare in qualcosa di migliore. Prenditi una pausa per capire quelle sere quando eri solo in una stanza a sperare qualcosa di migliore che non voleva tornare. Quelle sere passate da negare, col fiato sul collo ho sempre bisogno, ma una soluzione sembra non cambiare mai. Quella questione che rimane illogica, nell'logica perversa, nella mente sempre più dispersa, la coscienza di quella mente sempre più perdente, sempre nell'abisso più costante, costantemente, sempre. Senza un'ombra che risolva qualcosa in cui credere sublime, il pensiero in cui restare sublime, l'avversione più sperare sublime, quel cielo che non vuole arrivare e quelle questioni che rimangono sempre come tali nella mente, tali indifferentemente, quella che ti porta poi la gente, la questione che rimane nel cuore sospesa, che l'amore non torna con le preghiere, l'amore lo combatti fino in fondo quando tu hai bisogno di qualcosa di diverso, non ritorna mai il bisogno di quella sostanza, di quella questione. Quando le ore mi passavano leggere, ritorno a pensare a quelle volte, quelle sere, quelle volte quando le cose mi sembravano sempre più nere, quelle volte quando l'inganno viene dalla mente, quelle volte in cui l'inganno viene costantemente per turbare ogni questione esistenziale. L'amore non si vede, l'amore nelle vene, quello che non si fa, quello che non si capisce, l'amore poi punisce e rischia fa fuori come una biscia in cui non senti più gli amori, non senti più gli inganni, rimani sempre lì da solo a sperare quella notte, quelle sere vere che non tornano, non tornano leggere, non ritorna mai un amico, mai un ricordo, mai un abisso, mai un crocifisso che ti porti indietro come se fosse stato qualcosa che non fotte, qualcosa che gli altri non gliene fotte, ma spera, spera sempre che ci sia una sera vera, nuova, che ti porti primavera, quella sera, quelle cose migliori passate ad ascoltare, passate a ricordare. Quante volte nel cuore volevi una soluzione, quante volte nel cuore volevi un nuovo amore, quante volte nel cuore volevi solo sperare, quante volte nel cuore volevi solo agire e andare di conseguenza di pari passo alla sostanza, cercare un altro volo in una stanza persa, ogni speranza. Quella volta che cercavi il cuore dentro una lacrima che non si dissolve, non si ritorna, non si svolge. Il problema è la questione, l'ipotesi è il problema e sulla soluzione è l'ipotesi, e cazzo è un circolo perverso dal quale non c'è soluzione, di navigare fuori per ore passate a macerare con i ricordi in superficie, il cuore sempre giù come una cicatrice perdente, perdente, mi dicevo nella mente. E quanto volevi che io sperassi, e quanto volevi che io amassi, meno me in fondo ci sei riuscito. Il problema non è che sei stato meno leale, il problema è che ero io a perdere la sostanza del mio cuore.